Salva Danaio di Deborah Rosciani. Eh sì, ferie finite anche per Salva Danaio. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani. Si riparte per una nuova, una lunga e speriamo utile stagione dedicata alle informazioni rivolte alle famiglie che ci ascoltano, informazioni che riteniamo utili per gestire al meglio il proprio bilancio, il proprio denaro. Torneremo, come abbiamo sempre fatto, a parlare di tutti i temi che vi sono cari: la casa, il mutuo, il risparmio, le tasse, prestiti e finanziamenti, la spesa, le bollette, il costo della famiglia, il costo dei figli. Con che cosa abbiamo deciso di ripartire? Con un tema che avevamo già anticipato, avremo discusso al ritorno da Salva Danaio, ne avevamo già parlato prima di salutarci per le vacanze. Ripartiamo con la sanatoria di Colf e Badanti, che partirà domani, martedì 1 settembre. Una questione particolarmente delicata e impegnativa per il Ministero dell'Interno, che ha pubblicato il programma informatico e il manuale necessari per compilare la domanda di sanatoria per un immigrato irregolare da assumere come colf, come collaboratore familiare o badante. Quindi ci sono già tutti gli strumenti necessari per avviare la procedura che interessano i datori di lavoro. Il software è disponibile già da venerdì scorso, 28 agosto, sul sito del Ministero dell'Interno. È scaricabile anche dal sito del Sole 24 Ore. Per la presentazione della domanda di regolarizzazione c'è tempo fino al 30 settembre. Da qualche giorno è in corso una campagna informativa molto intensa, ma probabilmente c'è ancora qualche aspetto non chiaro per chi deve fare la domanda di regolarizzazione. E oggi allora, per aiutarvi, oltre a noi di Salva Danaio, vi ricordo che è in uscita con il Sole 24 Ore anche il dossier Colf e Badanti, una guida dettagliata, aggiornata, speriamo il più precisa possibile, con le istruzioni del Viminale e dell'INPS per affrontare questo appuntamento atteso da oltre 500.000 di famiglie, per riuscire appunto a mettersi in regola e a mettere in regola questo rapporto di lavoro. E allora noi oggi rifaremo il vademecum, tutta la serie di istruzioni necessarie per le famiglie che si devono mettere a posto, con la nostra Francesca Padula, che ritroviamo. Bentornata, Salva Danaio. Grazie, buongiorno. Tra le appunto coordinatrici di questo dossier uscito questa mattina, e diamo il benvenuto anche, che questa mattina tra l'altro è nei nostri studi di Roma di Radio 24, alla dottoressa Daniela Parisi, viceprefetto del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. Dottoressa Parisi, benvenuta a Salva Danaio. Grazie, buongiorno. Buongiorno anche a lei. Pronta a rispondere alle domande dei nostri ascoltatori? Riattiviamo allora la procedura invece regolare per interagire con Salva Danaio, che è quella che la solita, insomma, che vi permette di chiacchierare con noi chiamandoci all'800 24 00 24 per intervenire in diretta. Se siete invece dei timidi o siete ancora un po' stanchi e state recuperando le forze dopo le vacanze, dovreste averlo già fatto per la verità nelle ultime settimane, ci potete scrivere invece al 349 238 66 66. Prima di entrare allora nel merito di questo argomento, un'occhiata alla borsa. Stamattina la settimana è partita male, con un calo di circa lo 0,7% a Parigi, a Francoforte. Londra chiusa per il Bank Holiday, non registra ovviamente alcuna variazione, mentre è un po' più negativa la variazione percentuale di Piazza Affari. FTSE MIB meno 1,13% stamattina, una Milano che parte male, zavorrata dai titoli del settore bancario dopo i risultati di UbiBanca che sono stati diffusi sabato scorso. Il titolo flat del 3,46% a Milano, seguono le flessioni del 2,60% della Popolare di Milano. Il Banco Popolare perde il 2%, anche Geox è in calo del 2%, male gli altri titoli del settore bancario ed assicurativo, con cali di quasi 2 punti troviamo Generali, Intesa San Paolo, Monte dei Paschi ed Alleanza. Brutta giornata anche per Fiat, che è sopra gli 8 euro ma perde l'1,80%, domani abbiamo i dati sulle immatricolazioni in agosto per le auto in Italia. STM meno 1,63, Unipol meno 1,38, ma ci sarà qualche titolo positivo a Milano? C'è, e Autogrill ci sono. Uno è Autogrill più 0,7%, segue Terna più 0,59, Parmalat più 0,45, Snam Retegas più 0,39, abbiamo sullo 0, quindi con nessuna variazione percentuale, Eni e A2A, a quanto pare dunque il mercato stamattina molto orientato ai titoli difensivi. Abbiamo Un certo fermento invece sul versante valutario, non tanto nel rapporto euro-dollaro a 1,4293 quanto invece in riferimento allo yen, che dopo i risultati elettorali giapponesi sta correndo. Stamattina sul dollaro si è portato ai massimi da 7 settimane. A questa parte il petrolio è a $72 al barile, molto male stamattina le contrattazioni in Cina. La borsa di Shanghai ha perso quasi il 7% per un po' di timori legati alla frenata dei prestiti bancari cinesi. Questo almeno è il motivo, queste sono almeno le interpretazioni appunto che hanno dato gli operatori osservando il calo della borsa cinese. Però noi la borsa la lasciamo e andiamo subito al tema di questa mattina, al tema che abbiamo scelto per riaprire la stagione di Salva Danaio, e andiamo appunto su un tema che oggi trovate praticamente su tutti i giornali, in particolar modo sulle Sole 24 Ore, che pubblica sull'argomento un articolato dossier. Da domani entra nel vivo la regolarizzazione di colf e badanti, ecco quello che è necessario fare. Scatta la seconda fase per la regolarizzazione di colf e badanti. Da domani, infatti, fino al 30 settembre, sarà possibile inviare, attraverso il sito internet del Ministero dell'Interno, la domanda di regolarizzazione di coloro che lavorano per gli affari domestici. La sanatoria interessa, secondo le previsioni del Viminale, dalle 500 alle 750.000 famiglie che occupano irregolarmente italiani oppure stranieri comunitari o extracomunitari. L'operazione di emersione è partita il 21 agosto con il pagamento del contributo forfettario di €500 per ogni assistente familiare da mettere in regola, pagamento effettuabile compilando il modello F24, disponibile anch'esso dal sito del Ministero o semplicemente in banca o alle poste. Ma è proprio da domani che è possibile inviare la domanda di regolarizzazione vera e propria per i lavoratori impiegati nelle faccende domestiche. Non c'è fretta però, si ha tempo fino alla fine del mese di settembre per inviare le richieste e non è necessario mandarle il prima possibile, infatti non ci saranno vantaggi per nessuno. Tutte le istanze saranno accolte senza differenziazioni, l'unica cosa importante è che siano compilate correttamente e ritenute valide. Bisogna ricordare infine che per richiedere la regolarizzazione dei propri lavoratori domestici, il rapporto di lavoro deve risultare alla data del 30 giugno 2009 in corso da almeno 3 mesi, l'orario settimanale deve essere di minimo 20 ore e la retribuzione del lavoratore deve essere almeno pari all'importo dell'assegno sociale, che per quest'anno è di €409 mensili. 800 24 00 24, il vostro numero verde che vedo già particolarmente attivo per la gioia delle nostre colleghe al centralino, 349 238 6666, invece il numero per i vostri messaggi. Ma insomma, segno che abbiamo colto nel vivo questa mattina, d'altronde lo dicevamo, il tema oggi è su tutti i giornali. Da domani 1 settembre scatta la procedura telematica per la regolarizzazione dei nostri collaboratori familiari, delle nostre badanti che non siano già in regola, ed è, questo va precisato da subito, una procedura che riguarda, dottoressa Daniela Parisi del Ministero dell'Interno, coinvolgo subito lei, praticamente solo ed esclusivamente il datore di lavoro. Questo è un aspetto che va appunto precisato, perché io tra l'altro, riflettendo in questi giorni in vacanza su questo tema che avrei affrontato in riapertura di Salva Danaio, così immaginavo la Filippina piuttosto che una persona di un'altra nazionalità pronta a mettersi davanti al computer per compilare la domanda per la sistemazione del proprio posto di lavoro. In realtà non è esattamente questo il punto, il passo. No, si parla difatti di emersione di lavoro regolare, e la regolarizzazione è il datore di lavoro che regolarizza il rapporto di lavoro. Difatti questa è proprio un po' la differenza tra quelle che nel passato sono state le sanatorie, che in quel caso si regolarizzava la posizione dello straniero. Questa invece è proprio, come del resto anche l'ultima regolarizzazione del 2002, è il datore di lavoro che regolarizza questa posizione contributiva. Quindi tutta la dichiarazione la fa il datore di lavoro, che poi materialmente la compilazione, diciamo, informatica con i moduli informatici possa essere aiutato anche eventualmente dal proprio datore di lavoro, questa è un problema solamente così pratico. Mm-mm. Un altro aspetto molto importante che abbiamo precisato anche nella nostra scheda e secondo me sul quale va posto l'accento è che non sarà una gara chi arriva per primo nella compilazione della modulistica per la regolarizzazione, ma a chi esegue tutto correttamente. Certo, questo è importantissimo, ecco, ci teniamo pure noi a ricordarlo, di non diciamo andare immediatamente domani mattina a preparare, a compilare i moduli e a spedirli. C'è tutto il tempo, l'ordine cronologico di arrivo non è assolutamente importante, perché come diceva lei, quello che è importante è avere i requisiti. I moduli sono facilmente diciamo componibili e sono, aiutano molto nella compilazione, ci sono vari help, le istruzioni sono molto dettagliate e non solo, ma ogni pagina, se non si sono compilati tutti i campi, non va avanti, per cui avere diciamo anche il tempo, molte volte si può anche sospendere in un certo senso la compilazione e poi si può riprendere, cioè quindi è un lavoro che si può fare con tranquillità in qualsiasi momento del giorno, pure questo è importante. Infatti certo che il manuale che ha pubblicato il Ministero dell'Interno, dottoressa Parisi, è un manuale che è comunque di una cinquantina di pagine, forse vale la pena effettivamente dargli un'occhiata prima di avventurarsi nella compilazione online, no? Nel cosiddetto modello, sì, che adesso non mi ricordo come si chiama, l'EM, l'apposito modello. EM. Sì. Però non ci spaventiamo, cioè vedendo le istruzioni così, perché poi andando poi proprio sul modulo, è veramente semplice, perché ogni campo ci sono ad indicare determinati elementi che poi insomma sono i dati del datore di lavoro, del lavoratore, gli elementi del contratto, ma gli elementi del contratto va indicato solamente che tipologia di contratto, è anche guidato quello, i livelli contrattuali sono solo quelli propri del lavoro domestico o di assistenza alla persona. Abbiamo cercato il più possibile di guidare questa compilazione per evitare proprio infatti volevo anche poi precisare per correttezza che sono 50 pagine, sì, ma ogni pagina ha anche, come dire, la visualizzazione della schermata che compare nel nostro personal computer, sì, quindi necessariamente occupa un bel po' di spazio. Adesso, tra l'altro, prima di sentire anche Francesca Padula, vorrei sentire una domanda di Pietro da Milano, che mi dà il modo di fare la prima domanda anche alla collega del Sole 24 Ore. Vedo che ci sono alcuni ascoltatori che scrivono appunto come funziona la registrazione al sito. Non riesco ad accedere, ci segnala un'ascoltatrice che ci ha chiamato all'800 24 00 24. No, perché diciamo che l'accesso inizia da domattina, Francesca. Allora, quello quello che si poteva fare da venerdì, abbiamo reso anche noi disponibile sul sito del Sole 24 Ore il software del Ministero, era l'accesso alle istruzioni, al manuale, e proprio come diceva la dottoressa Parisi, per iniziare questa sorta di allenamento, per iniziare a compilare la pratica, poi capire se si ha a disposizione tutti i dati, quindi questo duplice identikit anagrafico del datore e della lavoratrice. Poi si può, l'invio invece comincia da domani, quindi si deve scaricare da domani il modello di immersione, e soltanto da domani sarà disponibile. Allora senti, siccome avevo citato e nominato questa ascoltatrice che aveva proprio sollevato questa perplessità, la sentiamo direttamente. Angela da Milano, benvenuta a Salva Danaio. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, lei ha già tentato di ha già fatto un collegamento con il sito del Viminale, sì, che cosa cercava e che cosa non funziona? Allora, funziona adesso forse, però da quello che avete detto ho capito. Io volevo entrare con la mia password, perché mi ero iscritta nel 2007 per il decreto flussi 2007. E volevo scaricare il modulo per questa sanatoria delle colfe badanti e non c'è questo modulo. Volevo chiedere se mi devo registrare nuovamente. Volta. Angela, la ringrazio. Sì, Francesca, questo è il punto. Non serve a niente la password della vecchia procedura telematica. Direi proprio di no. Poi la dottoressa Parisi forse può confermarlo, però è una procedura ex novo. Mi rendo conto che ci sono alcuni punti in comune, quindi la procedura telematica. E nel 2007 questa procedura telematica, a differenza di dell'attuale, ha stressato molto le famiglie, oltre che il Ministero, perché oltre che il Viminale. Perché davvero una gara perché che arrivava c'era prima. C'era davvero questa... Ecco, quindi siamo tutti pronti a scattare. Invece niente, da domani, con calma, come diceva la dottoressa Parisi, c'è un mese di tempo, poi le famiglie, appunto, come avete già ricordato, il dossier di oggi speriamo sia utile, che possa contribuire effettivamente e praticamente dia dei consigli. Però le famiglie non sono sole, chi ha delle difficoltà può rivolgersi, come la volta scorsa, ai patronati, ai sindacati. Abbiamo pubblicato oggi l'elenco, anche la lista di tutte le istituzioni che sono in grado in questo momento di aiutare le famiglie. Esattamente, sappiamo che il contributo dei sindacati e ai patronati è gratuito per le famiglie che ne hanno bisogno, e stamattina c'è questo incontro, c'è la firma di di questo accordo, di questo protocollo d'intesa, il ministro Maroni e i responsabili dell'ANCI stanno siglando questa intesa, per cui i comuni scendono, le truppe dei comuni, i servizi sociali e gli uffici dell'anagrafe scendono in campo per aiutare il Viminale e per raggiungere proprio le persone che hanno meno dimestichezza, non hanno la possibilità di un collegamento in casa e quindi possono affidarsi anche ai comuni, sapendo che l'invio telematico potrà essere fatto da alcuni funzionari comunali. Allora, chiedo alla dottoressa Daniela Parisi del Ministero dell'Interno se vuole supportare questi passaggi. Sì, volevo solo dire una cosa proprio della signora Angela prima. Parlava del 2007, allora presuppongo che la signora Angela forse hanno presentato già la domanda di emersione per i flussi del 2007. Questo è un altro elemento importante. Tutti i datori di lavoro che avevano già presentato per quel datore di lavoro, per quel lavoratore che vogliono far emergere, dovranno indicare questo nel modulo. Questo a noi servirà perché a quel punto cancelliamo le domande di flussi del 2007 e trattiamo solamente la domanda di regolarizzazione. In modo tale gli uffici potranno in un certo senso essere un po' decongestionati dal numero di domande che ancora sono pendenti e potranno più velocemente esaminare quelle di regolarizzazione che richiedono, per le quali dobbiamo in tempi speriamo più veloci rispetto al 2002 esaurire insomma tutte le istanze. Ecco, a proposito invece di questo accordo che citava la dottoressa Padula, dottoressa Parisi, sì, che viene siglato proprio in questi minuti a Milano tra voi, tra il Ministero dell'Interno, tra il Ministero del Welfare anche e l'ANCI, il Ministero del Welfare, l'Associazione dei lo Comuni, stanno firmando il nostro ministro Maroni, il ministro del Lavoro. Cosa potranno fare i comuni? ANCI. Cosa dovranno fare i comuni? Noi gli abbiamo dato la possibilità di con gli operatori dei comuni di poter scaricare un numero indefinito di moduli, per cui il lavoratore potrà recarsi proprio al comune che sottoscrive però il protocollo, ovviamente questa è un'adesione volontaria dei singoli comuni, e dopodiché l'operatore del comune stesso potrà svolgere questa funzione di assistenza che poi in realtà è quella che svolgono anche i patronati, però ovviamente il comune, pensiamo anche all'ipotesi della persona anziana che non può muoversi, si è preso accordi che eventualmente anche dei messi comunali potranno recarsi nelle abitazioni, quindi in quello che è un po' più l'attività del comune, che deve essere proprio quella di essere vicino ai propri cittadini. Comunque la rete di assistenza mi pare di capire che sia decisamente capillare in questa situazione, per cui non c'è modo di sfuggire anche alla compilazione corretta della modulistica per tutti coloro che fossero interessati. Se non sarà il comune che non ha aderito a questo protocollo d'intesa che viene firmato questa mattina, c'è comunque il sindacato magari del paese, c'è la CGIL, ci sono le ACLI, ci sono tutti i patronati, per cui sicuramente possiamo trovare il modo per non compilare in maniera errata la modulistica, perché poi c'è a rischio anche c'è a rischio il rapporto di lavoro che deve mettersi in piedi una volta appunto che il procedimento di regolarizzazione, tutta la compilazione che parte da domani va fatto. Volevo sentire, allora sì, mi stavo un po' confondendo sulle cose che voglio fare perché ce ne sono tante che vogliamo dire questa mattina, allora direi che siccome un passaggio importante è stato anche il versamento di questo contributo forfettario di 500 euro per avviare la procedura di regolarizzazione, sentirei Pietro da Milano che li ha già versati. Pietro, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, ci dica tutto. Ma la mia non è una domanda originale perché la prendo dal Sole di sabato, dove c'era un articolo in cui si diceva che questi 500 euro potrebbero servire soltanto a coprire il periodo dal primo di aprile a settembre. Poi se qualcuno, come credo siano molti, la badante là da un anno, due anni, tre anni, gli succederà che lo Stato gli mandi una bella cartella dicendo guarda, devi versare ogni tre mesi. Questa è la domanda che fa il Sole 24 Ore, che parlava appunto dell'opportunità di fare un discorso più completo e tombale. Allora Pietro, sentiamo un po' cosa ci dicono le nostre interlocutrici di questa mattina. E vi ricordo ancora appunto il dossier pubblicato dal Sole quest'oggi, che individua i 5 passaggi indispensabili per regolarizzare appunto il collaboratore familiare o la badante, e il primo punto è proprio questo: l'emersione comincia dal forfè di 500 euro. Francesca, perché si deve versare questo tributo, contributo come lo vogliamo chiamare? Allora, il forfè contributivo serve proprio a estinguere, diciamo, questa lavoro sommerso. Il lavoro sommerso, quindi non sono stati versati i contributi per la lavoratrice, e la decisione, quando a metà luglio è stata appunto decisa questa procedura di emersione, si è detto che il costo era di 500 euro per i 3 mesi precedenti al 30 giugno, perché si presuppone che la lavoratrice sia alle dipendenze della famiglia dal primo di aprile, quindi per i 3 mesi precedenti. Ora, è chiaro che quello che dice l'ascoltatore è un problema sollevato sul Sole 24 Ore di sabato, cioè è un forfè contributivo, è una tassa, ma vale a cancellare vale a sanare tutto il passato. Quindi bisogna che l'amministrazione chiarisca ancora di più, chiarisca meglio che si tratta di una cifra che mette una pietra sopra su tutto il passato. Eccoci ritrovati in diretta questa mattina, siamo tornati sul tema di grande attualità in questi giorni. Da domani è possibile scaricare via internet il modulo da inviare online per l'emersione di colf e badanti, quindi entra nel vivo questa procedura, questo procedimento, questa operazione di sanatoria, che poi tra l'altro nelle scorse settimane, quando ne parlavamo, non è stata neanche più definita come tale. Non piaceva a Francesca Padura molto questo termine, di fatto questo è, perché regolarizziamo la presenza di molti lavoratori irregolari nel nostro paese. Di fatto abbiamo eliminato la finzione che per tanti anni, che negli ultimi anni hanno avuto questi decreti flussi, quindi si faceva una domanda che di fatto era regolarizzazione, si chiedeva l'assunzione di una badante, di una colf che era già in Italia ma che in base alla legge Bossi Fini doveva trovarsi all'estero, abbiamo detto tante volte. Quindi adesso finalmente eliminato questa procedura, questo costoso viaggio di andata e ritorno, è una regolarizzazione per tutti gli stranieri senza permesso di soggiorno che vivono in Italia, limitata al settore domestico, quindi è chiaramente una misura tagliata apposta per le famiglie, e soprattutto una misura dovuta dopo che il reato di clandestinità è entrato in vigore l'8 agosto, e quindi chiaramente si sarebbe creata una situazione molto difficile da gestire dal punto di vista giuridico, con 500.000, 1 milione di irregolari e molte concentrazioni nelle famiglie italiane. Quindi noi abbiamo detto arriva il click salva famiglie, proprio perché salva la famiglia dal reato che già esisteva, quello del datore di lavoro che impiega una persona senza permesso di soggiorno, e salva anche le immigrate, che sappiamo sono tantissime, che lavorano nelle famiglie italiane. Quindi è proprio un click salva famiglia da questi duplici reati. Eravamo rimasti in sospeso con le considerazioni relative al versamento di questo forfè contributivo di 500 euro per ogni assistente familiare da regolarizzare. A dottoressa Parisi del Ministero dell'Interno, questo versamento è già possibile dal 21 agosto. Stavamo precisando i punti relativi alla durata di questo contributo, cioè un ascoltatore sollevava questo aspetto. Allora, questo contributo fornisce la copertura assistenziale e previdenziale dal periodo 1 aprile 30 giugno, quindi il secondo trimestre del 2009. Se il datore di lavoro dichiarerà poi, quando farà l'assunzione, che questo lavoratore già lavorava da prima, ovviamente dovranno essere pagati eventualmente i contributi anche per quel periodo precedente. A questo proposito, nel testo di legge c'è proprio scritto che il Ministro del Lavoro poi farà un apposito decreto con i quali determinerà le modalità di corrispondizione di queste altre somme, sempre tramite i modelli, quelli dell'INPS, mi sembra che sia l'LD15, una cosa. Quindi questo verrà precisato in un secondo momento. Sì, in un secondo momento. Allora, vorrei tornare ancora sul modulo da scaricare, per il cosiddetto modulo EM, appunto, che una volta compilato ci darà l'opportunità di regolarizzare il rapporto di lavoro con colf e badante, perché c'è Paolo da Milano che pure sostiene, come ha fatto un'ascoltatrice in precedenza, che l'accesso al sito presenta vari problemi. Paolo, buongiorno. Buongiorno. buongiorno a tutti gli ascoltatori e ai presenti. Volevo segnalare un caso mio, ho due genitori non autosufficienti, per cui adesso chiederò la dichiarazione di emersione per una detta all'assistenza domestica, sì. Ma ho avuto difficoltà perché io avevo già iscritto con la procedura decreto flussi del 2007 questa persona nell'ambito delle domande che si potevano presentare. Ora, la procedura per poter scaricare, in effetti presenta un errore, ad esempio, perché se voi andate sul sito del Ministero dell'Interno e scaricate la procedura, vi promette che scarica la procedura 1.08, in effetti poi esce fuori una maschera che dice che sta scaricando la 1.07, la versione release 1.07. A questo punto, nel momento in cui uno apre con la vecchia password che avevo, perché da nessuna parte ho potuto leggere che bisognava riregistrarsi un'altra volta, la versione dice che ci vuole una versione nuova aggiornata scaricabile dal sito del Ministero dell'Interno, che non c'è. Ora, un'altra domanda, perché c'è scritto che siccome nel modulo M, nelle anteprime che sono presentate, c'è scritto che io devo segnare la precedente posizione di richiesta nell'ambito del decreto flussi. Ora, la domanda è, sono ammessi casi di omonimia nella nuova registrazione o io mi devo cancellare da quella del decreto flussi 2007? Perché già da solo, cancellandomi nel decreto flussi 2007, provoco l'annullamento delle domande in corso che io avevo fatto. Quindi a questo punto non sarebbe neanche più necessario segnarlo, se mi devo cancellare, certo. A meno che la procedura non ammetta una doppia registrazione, una doppia registrazione. Paolo, guardi, le faccio fare tutte le domande che vuole, rimanga in linea, la faccio interagire direttamente con la persona che sa tutto della nuova procedura informatica, la dottoressa Parisi del Ministero dell'Interno, sì. Partendo col primo punto. Allora, lui ritorna sul decreto flussi del 2007, la password che è stato necessario attivare per quell'operazione, e abbiamo già avuto modo di dire nella prima parte di Salvadanaio che la nuova operazione invece è del tutto distinta da quella precedente, quindi la vecchia password da Paolo non dovrebbe servire a niente. Non dovrebbe averla neanche tirata fuori lui adesso. No, è così. Cioè, questa è una nuova procedura. La procedura riparte ex novo. Poi sarà, per questo è importante che il signor Paolo indichi bene che appunto ha già presentato domanda. Poi automaticamente diciamo il nostro apparato informatico ritroverà quella vecchia domanda, perché noi chiediamo anche l'indicazione del codice di quella domanda, e automaticamente le eliminerà dalla procedura vecchia. Quindi sono dati, non si deve preoccupare l'utente di fare cancellazione o meno, ci pensiamo noi, nel senso l'importante è che lui diciamo esprima la propria volontà di rinunciare alla vecchia procedura. Paolo. Sì, la sento benissimo, certo, la risposta è affermativa, però allora diciamo che se io mi registro un'altra volta non succede niente, con lo stesso non email. Succede niente. Con benissimo. Un'ultima cosa, sì. Quanto diciamo così alla premura, io gradirei sapere a che ora comincia la procedura, perché è vero che a pagina 3 c'è scritto della circolare 10, c'è scritto che... Non è una gara a chi la fa per primo, sì. Però a pagina 5 c'è scritto che a cominciare dal 1 ottobre dice le domande verranno prese in considerazione nel rispetto dell'ordine. Certo, quindi lei insomma secondo si vuole assicurare che quantomeno venga presa in considerazione nei tempi più rapidi possibili, dottoressa Parisi. Allora, guardi, non è che le dico un'ora precisa, diciamo sicuramente dalle prime ore di domani mattina, quindi diciamo se l'orario di Paolo ufficio, insomma, così, non alle 6, ma anche dalle 8 prima, in poi. Anche un po' prima, no, anche un po' prima delle 8, sicuramente, nelle benissimo. Prime ore del può provare anche prima, molto prima delle 8. Benissimo, dottoressa Parisi, grazie molto. Allora, come sente, le domande dei nostri ascoltatori sono davvero di natura estremamente pratica e in ogni caso vogliono sbrigarsi, si vogliono togliere di torno questo problema e compilare tutto nel minor tempo possibile. Allora, diamo anche qualche altra indicazione. Francesca, aiutami tu. Prima di cominciare a compilare la domanda domani mattina, qualora ci volessimo mettere di fronte a un personal computer alle 6 del mattino, stasera decideremo, cercheremo di scegliere accuratamente anche tutta la documentazione che ci mettiamo a fianco, sì, per poter fare questa compilazione in maniera assolutamente corretta. Cosa non ci dobbiamo dimenticare? Sì, allora, l'F24 è stato già versato, perché quello è il primo passaggio indispensabile. Se è stato già versato, bisogna avere a portata di mano anche la ricevuta dell'F24, perché sul modulo, oltre ai dati anagrafici, sarà necessario anche segnalare la ricevuta dell'F24. Direi che per compilare la procedura di emersione sono importanti i dati anagrafici del datore di lavoro e del lavoratore, quindi anche il famoso passaporto che andava già indicato nell'F24 del lavoratore. Qui si è posta poi una questione se è più o meno lungo di 17 lettere mettete soltanto le lettere senza aggiungere zeri e altre, quindi voglio dire anche qui sul dossier di oggi l'abbiamo, abbiamo cercato di chiarire quali sono i principali punti ancora in dubbio. Ce n'era anche uno relativo alla scadenza o meno del documento, esatto, del lavoratore. Perché il passaporto può, mi rendo conto che in realtà molti lavoratori stranieri possono avere più di un, mi rendo conto perché spesso lo raccontano loro stessi, abituati a questo problema del decreto flussi che li costringeva a partire e a tornare con un passaporto che non doveva, sul quale non doveva esserci traccia della loro presenza in Italia. Molti hanno più di un passaporto. Allora, bisogna segnalare, bisogna indicare il numero del passaporto che sarà poi quello valido quando si andrà a firmare il contratto di soggiorno allo sportello unico alla prefettura, quindi indicate il passaporto che scade più tardi. Infatti, diciamo. Perché tra l'altro la procedura che parte domani mattina non è che esaurisce poi tutta la questione, e su questo magari ci torniamo nell'ultima parte di Salva Danaio fra qualche minuto. Quindi sì. Allora documentazione di domani sì. mattina, l'F24 con il quale L'F24? Abbiamo dimostrato il pagamento, esatto, dei 500 euro del contributo forfettario. I documenti d'identità, mm-hmm, naturalmente il domicilio, quindi gli indirizzi. Ecco, la domanda dell'ascoltatore precedente e in effetti il chiarimento della dottoressa Parisi mi permette di dire che esiste proprio una schermata, io l'ho vista ed è indicata nel dossier di oggi, sulla quale bisogna segnalare di aver già fatto domanda per il decreto flussi. Esiste una voce che dice rinuncia, quindi rinuncia, uh-huh, alla pratica del decreto flussi, bisogna indicare sì. E ecco, questa è una cosa che appunto conviene procurarsi già dal momento in cui si decide di compilare. Okay. Il codice identificativo di quella pratica, domanda, di quella, che è quella ricevuta, che era stata rilasciata online a tutti coloro, ai famosi 740.000, di cui più di 400.000 datori di lavoro che decidevano, mm-hmm, di assumere extracomunitari. Mm-hmm. Nella compilazione della domanda c'è anche un altro aspetto importante che il datore di lavoro deve chiarire, cioè il reddito percepito. Sentiamo una domanda su questo di Giuseppe da Siracusa e poi sentiamo appunto Giuseppe. Buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, proprio io mi chiedevo, perché da quando sento o leggo sulla stampa, il reddito minimo del datore di lavoro non deve essere inferiore a 20.000 euro. Mm-hmm. Ora, per le badanti che sono comunitarie, per le badanti comunitarie esiste questa limitazione? Perché sul Sole 24 Ore c'è scritto che non c'è reddito minimo se la colf è comunitaria, ma se è una badante esiste questo limite invalicabile? Mm-hmm. Giuseppe, sentiamo la dottoressa Parisi del Ministero dell'Interno. Ha ragione Giuseppe? No, allora chiariamo bene, se la cittadina, cioè il lavoratore, è comunitario, non è lavoratore straniero e non rientra nella procedura di emersione, quindi rientra nella procedura con il pagamento all'INPS, quindi è solamente una regolarizzazione della parte contributiva. Quindi se la domestica, la badante, che può essere anche ovviamente il lavoratore comunitario, può svolgere sia attività di colf e di badanti, però in questo caso non va fatta la procedura di regolarizzazione. Ecco, questo richiariamolo bene. Noi ci rivolgiamo con la nostra procedura di cui stiamo parlando stamattina esclusivamente agli stranieri, quindi cittadini non comunitari che si trovano irregolarmente in Italia. Sentiamo se Giuseppe è ancora in linea per capire se questa sanatoria è fatta anche per quelli comunitari, per le colf e per le badanti. Sì, ma in questo caso non deve fare lei la procedura di cui stiamo dicendo, lei deve solamente pagare all'INPS attraverso il bollettino dell'INPS, quello che dicevo prima, adesso non mi dico, insomma, comunque collegandosi col sito dell'INPS deve pagare lei solamente i contributi per la sua badante comunitaria, ma la comunitaria non è irregolarmente soggiornante, quindi non deve fare questa procedura. Questa procedura serve, è vero, a regolarizzare la posizione contributiva, ma serve a regolarizzare la posizione di soggiorno degli stranieri. Benissimo. Mentre la situazione della comunitaria serve solo per regolarizzare la posizione contributiva. Per cui qualora Giuseppe avesse il timore di non poter fare questa regolarizzazione perché magari percepisce un reddito inferiore, può sgombrare il campo da ogni preoccupazione, perché non è questo il caso, giusto dottoressa Parisi? No, perfetto. Non è chiesto. Allora, a parte che per le badanti non è chiesto mai per il reddito, neanche per per gli extracomunitari, ma ancora di più per i comunitari. Quindi può tranquillamente pagare i contributi oltre ai 500 euro, poi pagherà, metterà a posto la posizione contributiva di questa badante e, insomma, e sta tranquilla. E allora, ultima parte di Salvadanaio, sempre imperniato questa mattina sul tema della regolarizzazione di colf e badanti. Peraltro, nell'autocertificazione che il datore di lavoro deve produrre a partire da domani, compilando questo famoso modulo EM, c'è anche la questione che riguarda proprio la badante, Francesca Padula. Sì, allora, deve non essere esiste... allegata la certificazione che attesti la necessità di avere una figura. No, non deve essere allegata perché no. Appunto la procedura è telematica, certo, quindi no. Però forse questo serve a rispondere anche all'ascoltatore precedente. Per la badante non è richiesto un requisito di reddito nemmeno nel caso di lavoratrici extracomunitarie. Serve avere una dichiarazione che attesti di un servizio pubblico, quindi di un medico della ASL, che attesti la non autosufficienza, e questa però è una certificazione che si deve tenere, che si deve tenere presso il proprio domicilio, ecco, non va, o che andrà controllata nel momento in cui si firma il contratto di soggiorno. Quando si firmerà il contratto di soggiorno? Allora, le previsioni ottimistiche, mi sembra, del Viminale sono quelle di chiudere la procedura entro l'anno. Il prefetto Morcone mi diceva la settimana scorsa che per fare questo è previsto un forte potenziamento degli uffici, che sono gli sportelli unici dell'immigrazione che esistono in tutte le prefetture. Al momento sono 103, non escluso che si arrivi a un raddoppio, soprattutto nelle grandi città, Roma e Milano. Ricordiamoci che a Milano la volta scorsa per assumere colf e badanti sono state presentate tipo 60, qualcosa come 65.000 domande. Allora avere un solo sportello che verifichi e che convochi le famiglie diventa una cosa impossibile. Saranno 4 o 5 a Milano, 4 o 5 a Roma. Si potenzierà anche attraverso l'assunzione, quindi attraverso nuovi contratti che diano quindi più personale a questi uffici, per permettere veramente di riuscire a chiudere la procedura in un anno, altrimenti si va per le lunghe. Quindi noi abbiamo parlato di questa fase che è già successiva a tutto l'iter telematico che si attiva da domani, dottoressa Parisi, del Ministero dell'Interno. Sì. Abbiamo già dato per scontato che praticamente tutte le domande che arriveranno e che verranno compilate a partire da domani siano compilate correttamente. Ma quali potrebbero essere le ragioni per cui si potrebbero generare degli errori nel corso della compilazione? Quali sono gli aspetti sui quali lei si sente di dover dare, come dire, qualche suggerimento di attenzione in più ai nostri ascoltatori? Guardi, fondamentalmente sui nomi stranieri. Mi raccomando, quando si fa la compilazione, di avere sotto mano proprio il passaporto dello straniero e ricopiare correttamente i nomi, perché molte volte gli errori, quelli più comuni, è proprio un errore nell'indicazione di questi nomi, di cui noi poi non abbiamo tanto dimestichezza, noi italiani ovviamente, perché in realtà per il resto, cioè per quanto riguarda ad esempio l'indicazione delle province e del comune eccetera, i moduli sono fatti anche con dei sistemi a tendina, no? Per cui lì è più facile, perché se si mette il comune di residenza si va subito sulla provincia, quindi è un modulo che aiuta tantissimo nella compilazione. Però ecco, importante avere sui dati anagrafici, avere proprio sotto mano i passaporti, i documenti anche del datore di lavoro, cioè non scrivere nomi non corretti. Ovviamente tutte poi quando verrà convocato il datore di lavoro, quegli errori che possono essere sanati vengono sanati, non ci deve essere questa preoccupazione di vedersi escluse le domande. Saranno rifiutati quelle domande che hanno, in cui sono stati dichiarati per esempio dei redditi che poi invece non vengono attestati, oppure il possesso di certificazioni mediche che poi non vengono esibite. Quindi di stare attenti, come diceva pure la dottoressa Padula prima di fare la compilazione, di avere sotto mano un po' tutto, quindi di avere a posto quello che poi dovrà essere esibito, e proprio per questo senza fretta di prendere tutte quante la documentazione e poi mettersi a compilare con calma. Infatti, una volta che iniziamo la compilazione, qualora dovessimo inserire dei dati che secondo il sistema informatico non sono corretti, il sistema ce lo dice tempestivamente, dottoressa? Sì, Parisi? Ovviamente i dati anagrafici il sistema non lo può sapere, però per esempio, cioè, se non si compila un campo non si va avanti, quindi se non si mettono per esempio dei dati obbligatori, dei campi obbligatori, non si va va avanti, ma uno può anche andare avanti, però alla fine della compilazione il sistema dirà: guarda che non hai compilato la linea tot di quella pagina. Per cui anche in questo caso, se uno vuole fare prima una compilazione, diciamo, sui dati che ha e poi ci può ritornare, lo può fare, perché tanto il sistema non consente di inviare la domanda, certo, se non è compilata completamente. Una volta che la domanda è stata compilata, speriamo tutta correttamente, il sistema ci invia anche una ricevuta, no? Oh, questo è importantissimo. Allora, innanzitutto il sistema ci manda un'email di conferma che il sistema ha ricevuto la domanda, e questo è il primo, come dire, la prima certezza di aver fatto un qualcosa di fatto bene. Poi dopo, successivamente, a partire dalle 72 ore successive all'invio di questa domanda, e poi sempre sarà possibile, si può scaricare il modulo di ricevuta. Ora, questa ricevuta perché è importante? Perché con questa ricevuta, in cui vengono riportati i dati del lavoratore e del datore di lavoro, dovrà essere consegnata in copia al datore, anche al lavoratore, perché il lavoratore, per tutto il tempo che rimane sul territorio nazionale in attesa della convocazione, non è ovviamente punibile, certo, come anche il datore di lavoro, però bisogna che, se viene fermato dalle forze di polizia, possa dimostrare di aver presentato domande. Certo, questa non domanda, che questo lo autorizza a fare qualsiasi cosa nel nostro paese, no, naturalmente. Certo, no, assolutamente. No, un'altra cosa importante è che abbiamo dato alle forze di polizia un sistema di controllo online di queste domande, per cui la ricevuta non è falsa, cioè se viene fatta qualche falsificazione si può risalire velocemente alla verifica che quella ricevuta non è corretta, sia ufficiale o meno. Allora, okay, abbiamo pochissimi minuti di tempo. Io, peraltro, siccome abbiamo un mese di tempo per la compilazione di queste domande, temo di dovervi riconvocare molto presto per dare ancora supporto ai nostri ascoltatori, che magari proprio anche prendendo in seria considerazione i suggerimenti dati questa mattina, cioè non si avventurano domani mattina alle 6 nella compilazione, ma magari lo faranno con calma e con qualche giorno per studiare bene tutta la procedura, allora magari ci ritorneremo anche a dare qualche indicazione pratica. Intanto sentiamo le ultime domande. Luigi dalla provincia di Pordenone, che saluto. Luigi, benvenuto all'800240024. Ci dica. Grazie, io ho una badante che assiste mia madre. Sì. Che mi ha posto due domande, cioè lei, a cui la dottoressa Parisi ha appena risposto, peraltro. Questa domanda di emersione presuppone poi, dopo quanto tempo, l'emissione di un permesso di soggiorno, perché questa badante vorrebbe tornare nel suo paese a trovare i figli? Questa è la prima domanda, ma mi pare che abbia già risposto, 6 mesi circa. Sì. La seconda domanda, nell'ambito di questa richiesta di emersione, presuppone anche che sia già definito un contratto di lavoro con l'orario che si decide? Allora, perché finora il contratto è stato, cioè il contratto di lavoro è stato in forma privata, è contrattuato tra la badante. No, ha sollevato un punto molto importante. Dottoressa Parisi, glielo giro subito perché abbiamo 2 minuti di tempo prima di chiudere, sì, ma mi sembra un passaggio fondamentale. Sì. Nel modulo, lei come troverà, quando prenderà il modulo, vedrà che c'è proprio la proposta di contratto di soggiorno, dove devono essere indicate e la tipologia, le mansioni e il livello di categoria di questo rapporto di lavoro. Ci saranno nelle istruzioni, ci sono allegati tutti quanti i livelli, quindi può tranquillamente scegliere, è facile poi rinvenire il livello di rapporto di lavoro. Quando poi verrà convocato allo sportello unico, firmerà e sottoscriverà insieme con il lavoratore il vero e proprio contratto di soggiorno, e dopodiché non è finita qua, nel senso che poi ci sarà l'operatore dell'INPS. Questa è un'altra cosa importante che abbiamo preso accordo con l'INPS, per cui ci sarà l'operatore dell'INPS che farà poi la vera e propria, come dire, comunicazione al sistema INPS, per poi far cominciare, e da quel momento comincia il rapporto di lavoro vero e proprio. Con i bollettini, insomma, che arrivano dall'istituto. E poi i bollettini, poi l'INPS manderà i bollettini a casa. Benissimo. Quindi anche questo. Allora, quindi, diciamo, usciti dallo sportello unico, hanno fatto un po' tutto i datori di lavoro, non devono fare altro. Sto cercando di capire quale ascoltatore sentire prima della chiusura, se sono fortunata riesco a sentire entrambi. Rapidissimo. Daniela da Napoli, benvenuta. Grazie. grazie, buongiorno. Cortesemente volevo sapere se era possibile regolarizzare una badante che lavora per mia nonna solo dal 20 luglio. Quindi da poco più di un mese. Daniela, grazie. Francesca? Direi proprio di no. Direi che questa data della dottoressa Parisi lo può confermare. È indispensabile avere questa persona alle dipendenze dal 1° aprile. È un requisito. Ecco, appunto, devo dire che il modulo M online si apre proprio con la presa d'atto, cioè bisogna sapere che una falsa dichiarazione costituisce reato, quindi attenzione anche a compilare, quindi il 20 luglio è una data che di per sé esclude la possibilità e di fare questa regolarizzazione. E come può gestire il rapporto di lavoro con questa persona, Daniela? Direi che è una Parisi, qua sul finire della trasmissione abbiamo tirato proprio in ballo una questione un po' delicata. Che può fare Daniela? Daniela non può utilizzare questa immersione, cioè se il rapporto di lavoro, la norma dice da almeno 3 mesi e quindi devono esserci i requisiti di questo rapporto di lavoro già iniziato precedentemente. Francesca. Altrimenti mancherebbe anche il requisito per pagare il forfè, cioè voglio dire è costruito in modo tale da coinvolgere il maggior numero di persone. Il maggior numero di persone irregolari in Italia era già presente, evidentemente è stata decisa una data che potesse e non quelli che sono arrivati successivamente, che invece evidentemente non possono essere coinvolti. Allora io devo salutarvi, non riusciamo a rispondere a Francesco da Padova, magari Francesco ci scriva, noi gireremo tutte le domande a Francesca Padula che ci risponderà naturalmente. Ecco, sul Sole 24 Ore, esatto, sul sito potete comunque continuare a mandare le domande. C'è anche l'altra indicazione sull'altra iniziativa editoriale. Allora, c'è il Colfe Badanti del Sistema Frizzera, uno speciale che è in vendita da venerdì prossimo e contiene anche la possibilità con un dischetto di provare appunto a calcolare la busta paga della Colfe della Badante in modo tale da sapere il costo a cui si va incontro quando finirà tutta poi la procedura di regolarizzazione. Sono come al solito fuori tempo massimo, io vi ringrazio molto per essere state con noi, ma vi riconvoco nel giro, guardate, al massimo di 15 giorni per tornare a spiegare bene come sta andando anche questa procedura di sanatoria telematica, almeno in queste prime battute, di Colfe Badanti. Grazie soprattutto alla dottoressa Parisi, viceprefetto del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. A presto, dottoressa. A presto, grazie. Grazie a voi. Molto, grazie anche a te, Francesca, ovviamente. Grazie, buona giornata a tutti. Domani parliamo dei costi della scuola, sta ricominciando, quanto ci costano questi ragazzi. A domani.